Marwan Barghouti ha rappresentato, almeno fino al giorno del suo arresto circa 2 anni fa, il più autorevole successore politico di Yasser Arafat. L'ampio consenso popolare dietro la sua persona è sempre stata la garanzia per la possibilità di trovare un nuovo compromesso, ormai impossibile da ottenere per gli israeliani da Arafat. Infatti Barghouti ha saputo mescolare nella sua attività politica una forte intransigenza nel rivendicare i diritti del proprio popolo e denunciare la politica aggressiva israeliana con la disponibilità nel ricercare un compromesso di pace con il nemico storico. In questo modo ha saputo ottenere la fiducia del suo popolo e le credenziali internazionali per essere un autorevole mediatore. Adesso la politica unilaterale ed estremista di Israele nei confronti della popolazione palestinese sembra poter fare a meno di un'importante figura politica come Barghouti. Israele infatti non cerca più un compromesso di pace, ma è deciso ad eliminare il problema in modo definitivo. Per questo Barghouti, processato e giudicato colpevole di 5 omicidi di civili israeliani, nei quali è stato identificato quale mandante spirituale degli attentati, ovvero l'accusa afferma che sapeva e che non ha fatto nulla per evitare le azioni. Barghouti si è sempre difeso dalle accuse, definendosi un leader politico e non un capo della guerriglia, scrollandosi la responsabilità per gli attentati. Ma ora le autorità israeliane vogliono chiudere con la pratica Barghouti e liberarsi di conseguenza di una patata bollente ormai priva di ogni utilità. Il 6 giugno, data la sentenza definitiva, il leader politico palestinese rischia la pena dell'ergastolo. Stefano Minutillo Turtu, reporter associati per Amisnet Radio.